Wender e Fabio Alisei presentano. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. X, Y, Z, ultime tre lettere dell'alfabeto, ultime generazioni rilasciate dal millennio concluso, come la coda di una sciarada. Contigue, digitali, globalizzate, ma dissimili nelle radici. Figli della guerra fredda, figli del boom economico, figli della crisi. Comunicanti, eppure non immuni ai processi di rimpianto per il tempo concluso, di giudizio critico verso ciò che è nuovo, come l'umanità che ci ha preceduto. È la dinamica dei ricordi, l'azione uguale e contraria che ci spinge simultaneamente a idealizzare ciò che ha raccontato i nostri giorni più belli e a svalutare i nostri attimi presenti, in nome del si stava meglio quando si stava peggio, del quando ero giovane io, del quando c'era lui. Mala tempora currunt, corrono tempi bui, dice la gente, da 25 secoli. Così ci dimentichiamo di quando siamo stati noi i più bassi della fila, l'oggetto delle teste scosse, degli sguardi severi degli adulti, delle menate sulla fine dei valori. Impegnati a contemplare ciò che resta dei nostri eroi, abbiamo dimenticato i nostri mostri, gli idoli takeaway venerati per mezza stagione, i paladini di mode orribili che ci sembravano troppo giusti e che oggi guardiamo con tenerezza, nascondendoci dietro l'ingenuità di allora. E dunque, eccoci qua, a dispensare giudizi sugli influencer del momento, fenomeni che respingiamo perché ci repellono e che forse non capiamo per il semplice fatto che non parlano di noi, con noi e nemmeno per noi, come i cinquantenni di 30 anni fa. Ma siamo proprio sicuri di aver vissuto un sogno? Oggi in Polaroid mettiamo a confronto anni 80 e tempo presente. Pop contro trap, elementi passeggeri di differenti decenni, in una raffica di scatti col flash. Indossate le spalline. Inizia Polaroid. Polaroid. Istantanee di storia della musica. ...1986... Johan è il terzo di tre gemelli, l'unico sopravvissuto al parto. Vive a Vienna, ha l'orecchio assoluto e a 4 anni suona già il pianoforte, come un altro popolare bambino di quelle parti, Wolfgang Amadeus Mozart. E non è un caso. Tuttavia, la routine dell'elegante capitale austro-ungarica è troppo standard per un giovane affamato di politica e di idealismo. Johan vuole imparare la vita, quella vera, quella che sfila davanti ad un muro grigio avvolto nel filo spinato, il muro che separa le due Berlino, Oriente da Occidente, comunisti e capitalisti. Nella zona NATO della capitale dell'ex DDR, Johan trova l'ispirazione. La musica è un nome d'arte, rubandolo ad uno sciatore impegnato nelle Olimpiadi invernali. Un certo Weissflog, Falco Weissflog, con la K. Una K destinata a diventare C nel viaggio che riporta a Vienna Johan, detto Falco, per ricominciare tutto dall'inizio, da quella curiosa coincidenza che lo legava al compositore Mozart, Wolfgang Amadeus. Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto.

perdendo le cose che ho. Amore, dimmi qualcosa, qualcosa di te che non so. Così mi prendo anche un piccolo pezzo di te, anche se non si può. Fai quel che vuoi, me ne frego. Me ne frego. Dimmi una bugia, me la bevo. Se sono ubriaco ed annego. Voglio ancora. 1986, Genova. In galleria Mazzini c'è un vecchio con la chitarra. È seduto su un seggiolino da campeggio, di quelli che si piegano e si portano via. Esegue per pochi spiccioli studi di Segovia, Bach, Paganini, con la pulizia e la leggerezza di chi ripete un gesto segnato un milione di volte. Ma nessuno lo ascolta. Poco più avanti, i ragazzi con le Timberland, assiepati davanti alla vetrina di ricordi, esultano su una canzonetta che fa... Ba, ba, ba, ba. Arriva un ragazzino con il Montgomery. Ha in mano la custodia in finta pelle di una vecchia Echo con le corde di nylon. Deve comprare degli spartiti. I due si guardano. Il vecchio pensa a tutte le pagine studiate. Il ragazzino a tutte quelle ancora da studiare per completare il conservatorio. Intanto, la canzone fa ancora... Ba, ba, ba, ba. Il vecchio dice piano: resisti. Raccoglie le monete nel cappello e le mette in tasca. Il ragazzino entra da ricordi. I ragazzini cantano ba ba ba ba. La canzone che ha conquistato il mondo fa ba ba ba ba. E né lui né il vecchio possono farci niente. Jesus, elettrica salsa, yeah! Elettrica salsa. Oggi in Italia. Ami se rispondo male, se non mi faccio trovare a cena in quel ristorante che adori, però poi mi faccio aspettare. Foto con altre, ma è tutto normale. Fai la gelosa, non rispondi al cellulare. E vieni qua mentre fumo un blunt, verso la Sprite sul baby doll. Siamo rock and roll, al mio collo flash, flash. Foto, oh, ti compro una borsa di Dior, ti penso mai lo, yeah. Anche se la sera, quando si fa tardi, sono in giro con gli altri e siamo tutti bastardi. Siamo tutti annebbiati dal fumo e dal Bacardi. Forse questa volta meglio non incontrarsi. Con le altre faccio lo stupido. Ho bevuto troppo, meglio se mi riportano da te. Ti ho colpita, sono cupido. Una tipa chic come te vuole un trap boy come me. Con le altre faccio lo stupido, ma non le scambierei mai con te. Non rispondere al tuo ex, ho una freccia come Cupido e l'ho lanciata verso di te. Mi go, Quavo, oh yeah. She fell in love with a trap nigga, yeah. I fell in love with a trap bitch, trap. Huncho having it, Huncho. Huncho savage, yeah. No, she not average. No, she did it to the carrots. Designer high fashion. Designer. We gon' ball at the Mavericks. Ball. I whip up the dough with her brother. Whip it up. Gave 100 racks to her mother. Rex. Huncho came from the gutter. Huncho. Now we made it out, we together. We together. Ice on my neck, we together. They got a 2-seater coupe, we together. Scoop, scoop. Every time I shoot, we together. Shoot. Count racks in the room, we together. Yeah. Came back, we get it in wide loads. Wide loads. Kick on the 5-0. Don't tell nobody, your eyes closed. I'm with a foreign, not the country, yeah. I'm whipping dope out in Italy, Italy. Cupido, Huncho, is they feeling me? Con le altre faccio lo stupido. Ho bevuto troppo, meglio se mi riportano da te. Ti ho colpita, sono Cupido. Una tipa chic come te vuole un trap boy come me. Con le altre faccio lo stupido, ma non le scambierei mai con te. Non rispondere al tuo ex, ho una freccia come Cupido e l'ho lanciata verso di te. Con le altre faccio lo stupido. Polaroid. Polaroid. Istantanee di storia della musica. Si ferma e torna tra poco. Solo su Radio 105. Questo è Polaroid. Istantanee di storia della musica. Oggi mettiamo a confronto i gusti della generazione X e della generazione Z, la musica degli anni 80 e quella di oggi, per non dimenticare che anche noi siamo stati giovani incompresi, cuori agitati. È questo il titolo dell'album che contiene uno degli inni dei ragazzi di 30 anni fa, perché a 21 anni, come tutti noi, anche Eros Ramazzotti cercava la sua terra promessa. Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni, restare amici di tutti. C'è Polaroid. istantanee di storia della musica. Swish on blunt, swish land, blim blau come i Beatles. Blast in tic tac, le prendo dal mattino. Già dal mattino, ya, tanto già non dormivo. La tua tipa mi fa, vorrei cambiare tipo. Swish on blunt, swish land, ciao ciao fratellino. Ex fanno tip tac sulle frasi del tipo. Bla bla bla bla. Nemmeno ascolto e sta zitto. Non mi definisco finto. Mi faccio un favore. Un viaggio lungo cambia lo spirito. Tu nel mentre parli non sei spirito. Se ho neanche un minimo lacrime sui tuoi eyes. Io non ce ne spreco mai. Piuttosto ti faccio bye. E sto solo fate proprio niente dei tuoi scazzi live. Live, quella volta ti presentai. Hai parenti come mia lei. Se non fosse che sei un po' fake. Troppo fake, troppo flame. In te, io farei solo Gucci, Gang, Fendi, Flex, every day. Swish on blunt, swish land, blim blau come i Beatles. Blast in tic tac, le prendo dal mattino. Già dal mattino, yeah, tanto già non dormivo. La tua tipa mi fa, vorrei cambiare tipo. Swish on blunt, swish land, ciao ciao fratellino. Ex fanno tip tac sulle frasi del tipo. Bla bla bla bla. Nemmeno ascolto e sta zitto. Non mi definisco finto. Mi faccio un favo. Giro sempre con Mary dietro. Oh, oh. C'è guai davanti. Mamma ti accollo. Oh, tanto non mollo. Siamo diamanti. Ti mezzo a tutto questo fango. No, non puoi negarlo bro. La cresta scende se ti parlo. Affatti mica fatto. Sali e cadi in basso bro. Sono qui un po' per te. Qui anche per me. Se non puoi un ostacolo. Figlio di essere solo il bene. Ma non ho lo. Swish on blunt, swish land, blim blau come i Beatles. Blast in tic tac, le prendo dal mattino. Già dal mattino, yeah, tanto già non dormivo. La tua tipa mi fa, vorrei cambiare tipo. Swish on blunt, swish land, ciao ciao fratellino. Ex fanno tip tac sulle frasi del tipo. Bla bla bla bla. Nemmeno ascolto sta zitto. Non mi definisco finto. Mi faccio un favore. 1986, Los Angeles, California. Fuori dagli studios, Madonna saluta George Harrison ringraziandolo per il cameo nel suo nuovo film Shanghai Surprise. Una storia brutta, stracostosa e sgangherata che distruggerà la sua carriera di attrice, ma che la getterà, almeno per un po', nelle braccia del giovane e promettente Sean Penn. Ma questa Madonna non può ancora saperlo, perché le riprese sono appena finite e la macchina pubblicitaria pompa alla grande, con promo, interviste, foto, cazzi, mazzi e paparazzi. C'è però una cosa che Madonna può sapere, anzi, che sicuramente già sa. Non è lei la cantante numero uno al mondo, non più. Nonostante Like a Virgin, Live to Tell, La Isla Bonita, il Live Aid e True Blue, i suoi 25 milioni di dischi venduti non sono abbastanza. Perché con 30 milioni di dischi, sul podio del globo, c'è una paesana cresciuta in un villaggio al confine tra Francia e Germania che non sa nemmeno come cazzo si scrive. Sandra Ann Lauer, o più semplicemente Sandra. Thank you. oggi in Italia. Proprio così, così è, così è, così è, proprio così è, così è, così è, così è, proprio così è, così è. Con il bus, affari spenti, per la fuga nella giungla, con le busti, testa lunga, 10 grammi, complimenti. Sto pensando che fa schifo la coca, giuro che stanotte bro ci dormirò sopra. Tutto fatto sul sofà, tipo na na na na na na na, non ricordo la strofa. Ho visto bene, e dopo dire, cose vere, da non dire. La penna in crocifisso manda a farsi benedire. Ho gli anni di Cristo, quindi meglio non uscire. Sai quel film che ti dicevo, fa paura, non ho visto la fine. Vuoi sapere qual è il titolo vero? Ho paura di uscire. Ho paura di uscire, ho paura di uscire, ho paura di uscire, ho paura di uscire. Forse perché questa giungla non è così verde, non è come te. Forse perché c'ho una palla di guida se gira e mi fa tutti giù. Forse perché quando vengo la notte mi ingoia, mi strappa la giù. E ti giuro è sicuro mi lasceranno nudo ballare sul mondo così. Così è, così è, così è, proprio così è, così è. BBC, studi di Londra. Uno stimato professore di sociologia cerca di spiegare ad un azzimato giornalista in giacca e cravatta il fenomeno di isteria di massa recentemente battezzato con il nome di Brossmania. Utilizzando parole minacciose e forbite come soggiogazione, inconscio collettivo e deresponsabilizzazione, si domanda come sia possibile che svariati milioni di giovani britanniche impazziscano per una coppia di gemelli, quasi certamente omosessuali, con la faccia da boscaiolo e le conoscenze musicali di una cocorita da circo. Il giornalista, allarmato, gli chiede quando prevede che finirà questo pericoloso fenomeno di emulazione e quanto inciderà sui costumi di questa generazione, già così vuota e superficiale. Il sociologo non ha la risposta, ma noi sì. Finirà meno di 6 mesi dopo, a Berlino. Il bassista della band, stremato dal sesso con le groupies, si rifiuta di salire sul palco e pretende di eseguire il concerto sdraiato sul divano in camerino. Nasce una lite. Una separazione, poi una causa. Il bassista viene liquidato con una grossa buona uscita che prosciugherà le casse dei due gemelli, facendoli diventare lo zimbello della stampa britannica. Oggi il bassista è il manager di Pink di Anastasia. Dei Bros, invece, non è rimasto niente. oggi in Italia. Baby mi hai preso per un gigolo, io penso quasi sia ridicolo. Mio fra mi chiama quando dormi e mi dice facciamo un giro bro. Sarai d'acciaio come il gigrobo, sti scemi pure se non ferro. Fra non sono del mio calibro, non gli aggiungiamo un posto a tavola. Se una di queste notti fra viene ad accarezzarmi il diavolo, vorrà dire che vuole l'anima. Ti amo, l'ho detto una volta nella vita, però non a te. Non so chi sei, né cosa vuoi. Se vuoi il mio numero c'ho il 41, mandami delle Chanel. Sono le 6, parliamo poi, ehi. Spesso mi capita che non so più nemmeno cosa devo dire. Ho scritto più di 100 rime senza lieto fine. Come fosse normale alzarmi ad un orario PM, con i diamanti nei lobby e dei culi nei DM. Disco d'oro al primo disco, pure Zala, perché la musica è mio padre, la strada è mia mamma. Non ho nulla da condividere con questi scarsi che hanno fatto la differenziata per differenziarsi. Baby, mica sono un gigolo, tra i palazzi come Gigrobo, queste strade sono fredde, ma una nuova giacca di Vuitton, quanto costa essere libero tu non lo sai. Molto più di queste macchine, di questo ice. Tempo scorre sul mio Audemar, mentre leggo l'ora dall'iPhone. Plaza plaza si sta esagerando, il mio frero non lo cambio, siamo separati al parto, ok? Sopra un Panamera bianco fumando californiano, il mio amico dal terzo piano, ok? Portami delle Chanel nuove, belle, brave, brava a scopare tutte queste troie. Io l'ho fatto doppio di platino al primo disco, sì l'ho fatta bella pesante fra me ne infischio. Genga, dalle Zapla, sono con Sfera da Cartier, tu da Zara. Devo riempire il borsello, sì di grana. Sto pensando a fare quelle, a farmene un'altra, yeah yeah. Polaroid, Polaroid. Istantanee di storia della musica, si ferma e torna tra poco, solo su Radio 105. Questo è Polaroid. Istantanee di storia della musica. Le date degli scatti di Polaroid di oggi risalgono agli anni 80 e al presente. Ogni generazione ha la propria moda, ogni moda ha i propri haters. E se quando avevamo 20 anni i vecchi screditavano ciò in cui credevamo, oggi quei vecchi siamo diventati noi. 1988. Tra le truffe meno note ai più, ce n'è una conosciuta con il nome di Metodo Farian. Porta il nome di un produttore discografico tedesco, Frank Farian, alle prese con un grande problema. Ha per le mani un duo di musicisti, tanto bravi come compositori, quanto inchiavabili come immagine. Un problema pesante in un momento storico in cui l'unica religione è MTV. Così decide di andare a puttane per pensarci su e in un night incontra due spogliarellisti afroamericani robusti e atletici. Nello spazio di un gin tonic elabora la strategia criminale che lo renderà leggendario. Punto 1. I due musicisti brutti fanno le canzoni. I due cioccolatoni fisicati sono l'immagine. Copertine, poster, riviste. Punto 2. Zero live, tanti videoclip. Se i due africani non sanno cantare, chi se ne frega? Basta muovere le labbra a tempo e il gioco è fatto. In quell'epoca la televisione dice sempre la verità. O almeno così credevamo. Punto 3. Ospitate nei programmi musicali, ma solo a condizione di cantare in playback e di fare un gran casino. Piovono gli inviti. Tutto procede come aveva previsto. Punto 4. Partecipare al concerto di MTV davanti ad 80.000 persone in diretta mondiale. Sul palco, una vera band di musicisti che suona dal vivo, mentre le voci vengono trasmesse in playback da un giradischi. Eccola, l'unica falla nel piano di Farian. La folla balla troppo, la puntina salta e il vinile continua a ripetere ossessivamente la stessa frase. Uno dei falsi cantanti sul palco prova ad andargli dietro, ma l'altro fugge dietro le quinte, terrorizzato per essere stato scoperto. Ci vuole ancora un anno prima che decida di vuotare il sacco davanti ai giornalisti. Con 27 cause perse e diversi milioni di dischi, finisce il 12 novembre 1990 la storia del Metodo Farian e dei Milli Vanilli. In Italia. Amsterdam. Si dice che dietro un grande uomo si nasconda sempre una grande donna. Ma dietro un grande omosessuale? A rigor di logica, dietro un grande gay dovrebbe esserci un altro grande gay, e non solo a letto, intendo. Deve essere questo che ha pensato Richenel quando George Michael si è innamorato di lui. Diceva a se stesso: se George mi scrive le canzoni, diventerò di sicuro più famoso di Boy George o di Simon Le Bon. E invece no, con George hanno scopato tanto e scritto poco. Lui è diventato una star e Richenel è rimasto semplicemente Richenel, quello che su MTV cantava Dance Around the World. In Italia. Il mio drip costa tanto, tanto. Il mio drip costa tanto. Nessuno ha più stile di Mambo. Fumo tanto, sono sempre stanco. Il mio drip costa soldi. Fare il figo e flexare il mio hobby. Il mio drip costa soldi. Fare il figo e flexare il mio hobby. 1985, Torino. Al liceo scientifico Albert Einstein c'è l'ora di educazione fisica e gli studenti giocano a calcio nel cortile. Uno di loro, Johnson, è un vero fenomeno. Dribbla, passa, crossa, accarezza la palla come Zico, il mitico numero 10 della Seleção. Un suo compagno di classe, un ripetente, lo prende per il culo. Oh, Righi, sembri un brasiliano, dovresti chiamarti Righeira. E tutti ridono. I due diventano amici, anzi, fratelli. Girano con gli stessi occhiali da sole, indossano baffi finti, si fanno chiamare con lo stesso cognome, i Righeira. Qualche agosto più tardi, il mondo è diviso fra due sentimenti opposti: fare le vacanze al mare o chiudersi in casa per paura della bomba atomica. Che nella lingua dei fratelli Righeira diventa Vamos a la playa, la bomba estaglio. Il tormentone estivo più tormentone della storia dei tormentoni. Di quel disco venderanno 3 milioni di copie, 2 con quello successivo. Timbreranno le spiagge italiane con una canzone all'anno per altri 5 anni, mettendosi in tasca un bel capitale. E pensare che quando ancora non erano nessuno, cantavano No tengo dinero. In Italia. Tony, sono stanco perché scopo troppo. Spendo 5.000 per un cazzo di bassotto. Ok, della galera me ne fotto. Mio fratello ti fa un buco se provi a farmi un torto. Sono stanco perché scopo troppo. Spendo 5.000 per un cazzo di bassotto. Sì, della galera me ne fotto. Mio fratello ti fa un buco se provi a farmi un torto. Nonostante quello che i nostri genitori pensavano di noi, della nostra musica, delle nostre mode, dei nostri miti, siamo sopravvissuti a quell'era per diventare esattamente come loro. Critici, polemici, allarmisti. Ed è perfettamente naturale. Non possiamo imporre alle nuove generazioni i modelli da seguire, la musica da ascoltare, le influenze da subire o da respingere. Anche loro, come noi, hanno il diritto di essere liberi, stupidi e superficiali. Possiamo però continuare a proporgli esempi migliori, protagonisti sopravvissuti al tempo, elementi di qualità con la speranza che a poco li aiutino a comprendere i limiti dei loro idoli e dei messaggi che diffondono. Questo è quello che ogni settimana proviamo a fare qui, storia dopo storia, canzone dopo canzone, nei nostri scatti di Polaroid. Istantanee di storia della musica torna sabato prossimo. Sabato prossimo alle 19 su Radio 105. Polaroid è una produzione Zodi 105, ideato da Wender e Fabio Lisei. Voce Lucilla.